Appunto, ieri io volevo partire da una cosa di cui parlava ieri Dario durante l'intervento finale, dopo la manifestazione. L'importanza del ruolo dell'immaginazione, l'importanza dell'immaginare. Immaginare a cosa potrebbe servire la fabbrica pubblica socialmente integrata. A questo proposito volevo invitarvi a guardarvi intorno. Allora, noi là abbiamo l'hotel Ibis, dove un gruppo di 30 lavoratrici negli ultimi mesi si sono sindacalizzate nel settore del turismo, nel settore degli alberghi, che è un settore ancora oggi caratterizzato da delle condizioni di lavoro estremamente povero nel nostro paese e anche da cottimo. In moltissimi hotel si viene pagato per quante stanze si pulisce e non per quante ore si lavora. Sono lavoratrici donne che quindi hanno fatto questa scelta di sindacalizzarsi anche con le difficoltà dovute al doppio lavoro che devono fare, oltre al lavoro salariato part time, anche il lavoro nelle loro case, il lavoro di cura nei confronti della famiglia e dei figli. Là c'è il magazzino di Mondo Convenienza, dove un gruppo di lavoratori nel 2023 è riuscito, con 5 mesi di sciopero, a cambiare proprio questo tipo di condizioni che ci sono ancora all'Hotel Ibis e molti altri hotel, appunto scioperando per 5 mesi e riuscendo a trasformare il contratto nazionale multiservizi pulizie, che era applicato in quell'azienda, nel contratto nazionale della logistica, che vuol dire non solo un salario molto più dignitoso, ma anche delle condizioni di lavoro migliori. Ma ancora si sta lottando anche a Mondo Convenienza per diminuire ulteriormente i carichi di lavoro e diciamo lavorare in delle condizioni più sicure. Qua di fronte c'è il supermercato Panorama, dove lavoratori e lavoratrici in questi mesi si sono organizzati per lottare contro i licenziamenti. Sempre là dietro, vicino accanto proprio al magazzino di Mondo Convenienza, c'è una fabbrica dove per anni hanno lavorato appunto dei lavoratori in appalto per il brand di borse Montblanc, lavorando 12 ore al giorno, 6 giorni la settimana, per salari da fame, per appunto produrre delle borse vendute poi a 2000 euro nelle vetrine delle capitali europee, e appunto in un settore, quello del Made in Italy, a cui spesso siamo portati ad associare delle condizioni di lavoro positive, e dove invece ci sono semplicemente aziende multinazionali che cercano di spremere i lavoratori per fare il massimo profitto con delle condizioni di lavoro al massimo ribasso. Ma questi lavoratori di Montblanc sono anche stati in grado di costruire una convergenza internazionale che lo scorso ottobre ha portato a manifestare davanti ai negozi di mezza Europa, e stanno ancora lottando per essere ricollocati da Montblanc dopo la loro sindacalizzazione l'azienda aveva tolto l'appalto e lasciandoli di fatto senza lavoro. Quindi anche solo guardandoci intorno da questo palco possiamo vedere come la fabbrica pubblica socialmente integrata può diventare un polo di convergenza per queste lotte in maniera più strutturata, perché già in tutti questi anni lo è stata. Ma può esserlo ancora di più, può essere un luogo dove queste lavoratrici, questi lavoratori che lavorano in settori diversi, che vengono da paesi diversi, si possono incontrare, si possono organizzare, si possono riconoscere. E quindi anche un punto di riferimento per un nuovo modo di fare sindacato, che è quello che noi appunto in questi anni abbiamo provato, stiamo provando a fare davanti ai cancelli delle fabbriche, soprattutto nel distretto tessile di Prato, ma appunto non solo, un modo di fare sindacato in cui si lavora dentro i posti di lavoro, si combatte per trasformare le condizioni di lavoro, ma si prova anche a costruire un oltre, si prova anche a costruire qualcosa che già trasformi le nostre vite, le relazioni tra di noi, una comunità che si ricompone, dove davanti ai cancelli, negli scioperi, vediamo studenti e studentesse del liceo che quando escono da scuola vengono a sostenere i lavoratori che stanno scioperando, come ieri abbiamo visto le prime file della manifestazione che è arrivata a Campi Bisenzio, erano fatte di persone di tutte le età. E quindi io credo che da questi lavoratori e da queste lavoratrici sia importante prendere esempio. Molti di loro sono quelli considerati, diciamo, i più invisibili, i più precari, i lavoratori stranieri che hanno tutti i problemi che sono legati, appunto, come veniva ricordato anche ora, rispetto al referendum sulla cittadinanza, alle problematiche legate ai permessi di soggiorno, a condizioni di vita estremamente precarie e condizioni di lavoro che a volte rasentano la schiavitù quando si lavora 84 ore alla settimana. Ma da questi, appunto, lavoratori e lavoratrici, noi crediamo che in loro dobbiamo vedere un esempio, un esempio per iniziare a capire che è possibile organizzarsi sul posto di lavoro, che dobbiamo essere anche un po' dirci che siamo stanche di dirci che c'è troppa precarietà e questo non ci permette di organizzarci, non ci permette di sindacalizzarci, non ci permette di scioperare, ormai in Italia è troppo difficile, abbiamo troppo da perdere, se perdiamo il lavoro poi non lo ritroviamo. Noi crediamo che la sindacalizzazione, unirci e lottare invece sia l'unico modo per costruire una sicurezza collettiva. Il fatto che non siamo soli, e questo in questo festival lo vediamo bene, che la comunità che costruiamo è l'unica cosa che ci può salvare dai venti di guerra che soffiano sempre più forti, ci può salvare dalla paura di metterci in gioco che molto spesso rischia di paralizzarci, e ci può aiutare a reagire insieme anche se non è facile. E quindi speriamo insieme nelle prossime settimane, nei prossimi mesi di continuare a costruire un'alternativa in questa piana alla solitudine, all'individualismo, e noi ci saremo, siamo a disposizione per continuare a lottare fino a che ce ne sarà per questa fabbrica pubblica socialmente integrata che siamo sicuri riusciremo a vincere. Io colgo l'occasione anche per per invitarvi tutte e tutti a partecipare a quella che abbiamo scelto di chiamare Primavera dell'8x5, che sarà una staffetta di scioperi che inizierà domani al Macrolotto di Prato. Sono una quindicina di scioperi che appunto inizieranno domani e andranno avanti a staffetta nelle prossime settimane. Sono tutte fabbriche, diciamo, dove il processo lavorativo è stato parcellizzato nel distretto tessile, quindi tutte piccole fabbriche dove si fa una piccola parte della produzione, ma dove le condizioni di lavoro spesso sono omogenee, e quindi appunto 12 ore di lavoro al giorno per 7 giorni la settimana. Domani inizieremo questo primo sciopero, nelle prossime settimane appunto via via se ne aggiungeranno altri, e ovviamente ci sarà bisogno del sostegno e del contributo di tutte e tutti, sia appunto ai picchetti che metteranno le tende davanti a queste fabbriche e saranno lì in forma permanente giorno e notte fino a che non si arriverà a firmare degli accordi sindacali per lavorare 8 ore, 5 giorni la settimana, ma anche appunto della creatività di tutte e tutti. E quindi se qualcuno vuole contribuire anche a diciamo gli aspetti di intrattenimento, culturali, artistici di questi scioperi, crediamo che sia una cosa molto importante come questo festival ci insegna. E niente, quindi questo il 1° maggio saremo in piazza Prato il pomeriggio, un po' per portare questi sempre questi discorsi sull'esigenza di unirci come lavoratori e lavoratrici, ma anche di riscoprire un po' il senso originario anche di queste giornate che ereditiamo anche dalla storia del movimento operaio, oggi ancora più di sempre con un senso necessario di internazionalismo, di necessità di riconoscerci e unirci anche attraverso e oltre le frontiere, in un momento in cui vorrebbero che ci armassimo, vorrebbero che fossimo pronti a combatterci l'un l'altro, e dove invece insieme dobbiamo e possiamo opporci a tutto questo.